visto sogni combattere tra loro, come l'acqua delle cascate sui nodi rocciosi. Raccontare le voci dei desideri appena scorti, sperando di vederne la forma. Adoro quegli atomi perché ricordi di essere uomo e che il primo alito di vento può portare ispirazione. Senza timore scorgo il fluire del tempo e in un attimo mi accorgo sto scomparendo. Ho visto gente gridare alla vendetta per l'odio, ma senza conoscerlo realmente. Mi chiedo come mai il padre dei tempi non abbia chiarito la mente dell'individuo, e mi chiedo come sia possibile che sia ciò a renderci uomini. E intanto dipingo su una tela già colorata, perché spero di poter scavare tra le nuove incertezze e nuove ragioni per navigare. Senza timore scorgo il fluire del tempo e in un attimo mi accorgo sto scomparendo. Beati gli uomini che verranno, beato chi vedrà il suo nuova era, senza timore si affaccerà al tempo e lì potrò dirglielo sparisci. Senza timore scorgo il fluire del tempo e in un attimo mi accorgo sto scomparendo.